Letture di Radio 24. Non si è ancora spenta l'eco della protesta di Marco Bellocchio contro la giuria della Mostra del Cinema di Venezia, rea di non aver premiato il suo film La Bella Addormentata all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Sorrentino, escluso dai premi al recente Festival di Cannes, ha perlomeno evitato di entrare in polemica. Ma il problema del nostro cinema non è tanto la mancanza di riconoscimenti internazionali, quanto la scarsa qualità dei film, l'assistenzialismo al buio e un cinema che non sa più raccontare e finisce per ricorrere al solito schema della denuncia ideologica, come scrive il critico Valerio Caprara in un articolo pubblicato sull'ultimo numero della rivista Formiche. L'anno scorso i biglietti staccati in Italia sono stati 91 milioni, pochi rispetto a Francia e Spagna, mentre la quota di mercato appannaggio del nostro cinema è scesa dal precedente 35,6% al 25,2%. Ciò nonostante sono stati sfornati da Cinecittà e dintorni ben 166 titoli, non di rado, per evidenti ragioni di cervellotica inconsistenza o palese dilettantismo, destinati a non incassare nulla o addirittura a non vedere la luce del circuito. Una cifra evidentemente irragionevole o controproducente. È logico che l'intera gamma di simili criticità finisca col depotenziare il discorso sulle dinamiche produttive, le attitudini di sceneggiatori e registi e le misure messe in atto dalle istituzioni private o statali per migliorare la nostra competitività in campo internazionale. Anche perché non è facile consolarsi con la proliferazione delle nuove piattaforme, visto che, al netto dei danni esiziali provocati dalla pirateria, persino la loro benefica fame pretende film interessanti, professionalmente degni o comunque insoliti. Altrimenti il risultato finale è sempre lo stesso: soldi, anche dello Stato, buttati a mare. Accantonando provvisoriamente tali handicap di partenza, resta il tema della qualità artistica. La scena presenta da un lato pochi venerati maestri, Tornatore, talvolta Bellocchio, ormai raramente Bertolucci, alcuni veterani di peso, Avati, Amelio, Moretti, e solo due nuovi big a 18 carati, Garrone e Sorrentino. Dall'altro una pletora di commedianti tra i quali pochissimi, Verdone in primis, hanno una personalità a tutto tondo e sono in grado di svincolarsi dai canoni della gloriosa stagione degli anni 60. Non è una situazione esaltante, soprattutto se si pensa che per molti spettatori il cinema italiano continua ad apparire brutto per definizione, supportato da critici troppo zelanti e condannato ad accontentarsi di portare la croce dei cinepanettoni e omologhi. Mettendo le dovute cautele, è peraltro possibile convincersi che questi pregiudizi hanno un fondamento e che non si tratta solo di istinti grillini emigrati nell'area apparentemente frivola degli spettacoli. Una delle ragioni più robuste sta nel pigro consolidamento della corporazione, che porta con sé corollari come il frequente ricorso alla fiction di stampo televisivo e l'assistenzialismo al buio fornito ai progetti cartacei dei presunti autori. Ferite inferte in contemporanea all'affermarsi di parimenti sgradevoli fenomeni collaterali, come l'affermarsi dei miraggi d'occupazione creati dalle lauree distribuite a tappeto, dai sovradimensionati corsi di scienze della comunicazione o la sistematica sostituzione nei quotidiani e i magazine dei critici con i cronisti, senza particolare attenzione alle cognizioni specifiche di quest'ultimi tuttofare. Infine, non si può tacere il senso di sconcerto o noia che troppo spesso monta nel corso della visione di un film nazionale. Ciò che soprattutto ci sembra drammatico è constatare come sia pressoché introvabile un cinema che abbia l'obiettivo primario di raccontare per immagini, ricostruire un mondo di emozioni o sentimenti per via linguistica, raggiungere la definizione della trama o dei personaggi attraverso un dispositivo performativo dentro il medesimo luogo virtuale. Tutto sembra sempre risolversi nello schematismo ideologico della denuncia o nell'epidermico sviluppo delle recitazioni. In questo modo anche gli autori migliori o più volenterosi o meno atteggiati corrono, insomma, il rischio d'essere emarginati da una specie di trapianto effettuato in Italia all'opposto di come lo è stato negli Stati Uniti. Così, invece dell'egemonia dello specifico filmico sulla fiction, si è verificato il progressivo cannibalismo di quest'ultima, con la conseguenza che il primo, sotto il cielo di Cinecittà privo di una vera copertura industriale, sembra condannato a coltivare il piccolo cabotaggio di stampo effimero e autoreferenziale. L'assenza di classe e incisività, l'eccesso di poeticismo e furbizia, il cedimento al meccanismo della farsa a ogni costo, finiscono col girare in perpetuo su se stessi, in nome e per conto di un cinema che evita spregiudicate immersioni nei 100 fiori dell'esistente e preferisce rimasticare il passato con l'aiuto di un dozzinale digestivo moralistico qualunquistico alla moda. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo Condannati al piccolo cabotaggio di Valerio Caprara, storico e critico del cinema, dal numero di giugno della rivista Formiche. Si può trovare moglie sottoponendo le potenziali candidate ad un semplice test? Apparentemente sì, secondo Don Tillman, protagonista del fortunato romanzo d'esordio di Graeme Simsion, l'amore è un difetto meraviglioso. Don è un genetista australiano che ha scoperto che non solo gli uomini sposati sono più felici rispetto agli scapoli, ma vivono anche più a lungo. Non gli resta quindi che trovare la compagna ideale e per farlo elabora quello che chiama Progetto Moglie, un questionario che gli permette di escludere tutte le candidate sbagliate. Una sera, a cena con gli amici Jean e Claudia, illustra i dettagli del suo progetto. Spiegai che avevo seguito alla lettera le più recenti norme sulla redazione dei questionari, includendo domande a risposta multipla, scale di Likert, controlli incrociati, domande trabocchetto e surrogati. Claudia mi chiese un esempio di questi ultimi. Domanda numero 35. Mangi i reni? La risposta corretta è la C, occasionalmente. È mirata a individuare problemi col cibo. Se chiedi direttamente le preferenze alimentari, rispondono «mangio di tutto». E poi scopri che sono vegetariane. So che ci sono diverse argomentazioni in favore dei vegetariani. Tuttavia, dato che io la carne la mangio, ritenevo conveniente che la mangiasse anche la mia compagna. A quello stadio preliminare mi sembrava logico specificare la soluzione ideale e rivedere il questionario in seguito, se necessario. Claudia e Gene continuarono a leggere. Claudia disse: «Per un appuntamento immagino che la risposta corretta sia B, qualche minuto in anticipo. Era un errore marchiano». A dimostrazione del fatto che perfino Claudia, peraltro una buona amica, non era adatta a farmi da compagna. La risposta corretta è C, in orario, dissi. Arrivare d'abitudine in anticipo determina l'accumulo di un enorme spreco di tempo. Io però consentirei qualche minuto di anticipo come risposta, osservò Claudia. Potrebbe voler dire che la candidata ci tiene molto. Non è una brutta cosa. Un'osservazione interessante. Mi annotai di prenderla in considerazione, ma specificai che di qualche minuto in ritardo ed e molto in ritardo erano inaccettabili da tutti i punti di vista. Credo che se una donna descrivesse se stessa come ottima cuoca sarebbe un po' vanitosa, disse Claudia. Chiedi semplicemente se le piace cucinare e specifica che anche a te piace. Era proprio il tipo di aiuto di cui avevo bisogno. Sono piccole sfumature del linguaggio che a me sfuggono. In effetti, se la candidata fosse stata simile a me, non avrebbe dovuto notare la differenza. Ma sarebbe stato altresì irragionevole richiedere che la mia potenziale compagna fosse incapace, come me, di cogliere le sottigliezze. «Niente gioielli e niente trucco?» disse Claudia, identificando in modo corretto la risposta a due domande che avevo aggiunto di recente dopo la mia interazione con la preside. «I gioielli non hanno sempre a che fare con le apparenze», mi spiegò Claudia. «Se proprio devi fare una domanda su queste cose, lascia perdere quella sui gioielli e tieni quella sul trucco». Ma chiedi solo se lo mette ogni giorno. Altezza, peso e indice di massa corporea, disse Gene, andando avanti. Ma non puoi calcolartelo tu. È proprio questo lo scopo della domanda, dissi. Mi serve per controllare che sappiano fare almeno un calcolo algebrico elementare. Non voglio una compagna del tutto a digiuno di matematica. Credevo ti servisse per farti almeno un'idea del loro aspetto fisico, disse Gene. E infatti una domanda della forma fisica è prevista, specificai. Io mi riferivo al sesso, disse Gene. Aggiungerò una domanda sull'AIDS e sull'herpes. Basta, intervenne Claudia. Sta diventando fin troppo selettivo. Iniziai a spiegarle che una malattia incurabile, per giunta trasmissibile sessualmente, rappresentava un'elevata criticità. Ma Claudia mi interruppe. Non mi riferivo solo a questo punto, ma a tutto l'insieme. Era una reazione comprensibile e tuttavia la mia strategia consisteva nel minimizzare la possibilità di commettere un errore di tipo 1, sprecare tempo con una candidata inadeguata. Inevitabilmente ciò avrebbe aumentato il rischio di un errore di tipo 2, rifiutare una candidata adatta, ma si trattava di un rischio accettabile, perché avevo a che fare con una vasta popolazione. Fu il turno di Gene. Non fumatrice, mi sembra giusto. Ma qual è la risposta giusta sul bere? Zero. Aspetta un attimo, disse. Ma tu bevi? Indicò il mio bicchiere di porto che avevo rabboccato appena un momento prima. E non poco, tra l'altro. Spiegai loro che mi aspettavo che il progetto migliorasse anche me. Proseguimmo in questo modo e ottenni dei consigli eccellenti. Si può dire che ora il questionario fosse meno selettivo, ma avrebbe comunque eliminato quasi tutte le donne che si erano rivelate problematiche in passato. Il mio piano consisteva nel farmi pubblicità sui più noti siti di appuntamenti, dove però avrei inserito un link al questionario, oltre a pubblicare le solite informazioni su statura, professione e sulla propensione o meno a godere di lunghe passeggiate sulla spiaggia, tutti dati che ritenevo poco utili per restringere il campo. Gene e Claudia mi suggerirono anche di sottopormi a qualche appuntamento faccia a faccia, per allenare le mie abilità sociali. Mettere alla prova sul campo il questionario, in effetti, avrebbe avuto dei vantaggi. Perciò, mentre attendevo le risposte via internet, ne stampai qualche copia e mi dedicai di nuovo alla procedura degli appuntamenti, che credevo di aver abbandonato per sempre. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Graeme Simsion, L'amore è un difetto meraviglioso, Longanesi, 304 pagine, 14,90 euro.